Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, ultima puntata di Focus Economia della settimana, contrariamente a quanto abbiamo annunciato ieri per motivi di sopraggiunti, come si dice in questi casi, di impegni professionali, non siamo in diretta dal Salone del Libro di Torino, ma ci sono gli ospiti di Focus Economia invece negli studi di Radio 24 al padiglione 2, stand J166, accanto alla Sala Blu. Mi hanno detto, allora io vorrei innanzitutto salutare, perché sono già nei nostri studi, Antonio Calabrò, giornalista economico, che ha appena pubblicato, ha lavorato moltissimi anni anche a Sole 24 Ore, ha appena pubblicato assieme a Nani Beccali, Falco, che saluto anche lui, Il riscatto, prospettive per una nuova industrializzazione, edizione Bocconi. Buonasera Calabrò, ciao Antonio. Buonasera, ciao. E grazie anche al dottor Nani Beccali Falco, che è presidente e amministratore delegato di General Electric Europe e North Asia, nonché amministratore delegato di General Electric Germania. Buonasera anche a lei. Buonasera. Mi fate un applauso, ciao Torino, mi dispiace non essere con voi. Scusate per la sola, ma non dipende obiettivamente da me. Comunque il programma va in onda e la radio almeno si ascolta, oltre che vedessi. Con Antonio Calabrò e Beccali Falco vorrei toccare, oltre ai temi del loro libro, cioè le prospettive per uno scatto di orgoglio del nostro sistema di impresa, anche così unirli ai temi di attualità, perché oggi c'è stato un Consiglio dei Ministri importante, ma non solo, c'è stata una dichiarazione molto forte da parte del Ministro degli Esteri tedesco Westenwalle e anche soprattutto il Ministro dell'Economia e delle Finanze Wolfgang Schäuble, che hanno detto in sostanza se la Grecia non rispetta i patti esce dall'euro, noi andiamo avanti da soli. Visto anche il ruolo che ha Beccali Falco, vi chiederò di intervenire anche sull'attualità. Di questo parleremo chiaramente nel corso del programma e parleremo anche nella seconda ora del programma con un ospite sempre in diretta dal Salone del Libro di Torino, ed è il sociologo Ilvo Diamanti, sarà il sociologo Ilvo Diamanti, del tema disperati mai, perché continuano ad arrivare le vostre mail, la cronaca purtroppo oggi racconta di altri suicidi, ma in realtà il tema di come dare rappresentanza a un mondo che è sotto pressione, si sente solo, resta assolutamente attuale. L'indirizzo, lo ricordo, è disperatimai@radio24.it per dare voce, almeno voce, ai vostri problemi. Stanno arrivando anche, e lo dico da parte anche dei giovani industriali di varie categorie di Confindustria, molte richieste di poter partecipare, di fare una raccolta fondi da destinare a questi imprenditori. Ci stiamo lavorando, non è facile. E se mi permettete una battuta, già il fatto che noi dobbiamo diventare una specie di ponte per iniziative del genere ci fa moltissimo onore e anche ci riempie di responsabilità, però la dice lunga su un'incapacità del paese, inteso come governo centrale, ma anche enti locali e regionali, di dare risposte un po' più organiche, complessive, non solo di soldi ma anche di ascolto. Ma tant'è, noi tiriamo avanti. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le notizie in breve. La borsa è positiva di 0,5 punto percentuale, molto bene di nuovo A2A dopo la conclusione della vicenda Edison, +6,30%. Pirelli recupera dopo i rializzi di ieri, la trimestrale obiettivamente non era piaciuta così tanto, +4,70%, Fiat +3,90%, Diasorin +3,20%, Fiat Industrial +3%, Mediolanum +2,40%, Enel Green Power +2,30% come Autogrill, l'1,90% lo guadagna Eni, l'1,60 è il rialzo sia di Parmalat che di Azimut. E invece di nuovo sotto pressione Mediaset, -2,60%, il titolo scivola a 1,47 euro, Popolare Emilia Romagna -1,90%, Atlantia -1,40%, Mediobanca -1,16%, Telecom Italia e Intesa San Paolo -1%. Le banche oggi sono un po' deboli, ma nulla di preoccupante rispetto a altre sedute. Monte dei Paschi perde lo 0,70, Unicredit lo 0,60, Ubibanca 0,5 punto percentuale di calo. Dicevamo dal governo, il Consiglio dei Ministri che è terminato poco più di un'ora fa ha chiarito che sono stati stanziati circa 900 milioni di euro per l'innovazione e la competitività delle imprese, tra l'altro è una cifra indicata dal Ministero per la coesione territoriale, 400 milioni di euro per la cura dell'infanzia, 18, il che dovrebbe portare alla creazione di 18.000 posti nido, negli asili nido, entro il 2015 nel sud del paese. E poi per l'assistenza domiciliare integrata agli anziani 330 milioni di euro entro il 2015, però attenzione. È un tema che riguarda anche da vicino il libro di cui stavamo parlando, quello di Nanni Beccalli Falco e di Antonio Calabrò, perché ci sono 330 milioni che il Consiglio dei Ministri ha deciso di stanziare per la valorizzazione delle aree di maggiore attrazione culturale. Programma assolutamente legittimo, anzi auspicabile, speriamo che poi non vengano mangiati, perché sulle iniziative per valorizzare il territorio abbiamo visto, mi dispiace dirlo, soprattutto al sud, accadere un po' di tutto in questi anni. Molto concentrato sugli investimenti nel nostro mezzogiorno, comunque oggi il Consiglio dei Ministri, la fase 2 del piano del governo prevede infatti che vengano spostati fondi sottoutilizzati oppure utilizzati male per interventi ormai inefficaci dalle amministrazioni centrali dello Stato per un valore complessivo di 2 miliardi e 300 milioni di euro. Verrà in questo modo riprogrammata la spesa verso il Sud e ancora l'operazione per il solo Sud ha una gamba sull'inclusione sociale, ha affermato il ministro per la coesione sociale Fabrizio Barca, di 850 milioni di euro e una seconda grossa gamba per la crescita da 1 miliardo e 500 milioni di euro. Il piano prevede anche più servizi per chi non è autosufficiente, sempre nel mezzogiorno. Stiamo parlando del piano di coesione del governo per le quattro regioni obiettivo del Sud, che sono Sicilia, Calabria, Campania e Puglia. E poi il premier Mario Monti sul rigore, dopo aver aperto, ricorderete, due giorni fa all'ipotesi di decurtare, di non contare nel deficit di un paese gli investimenti che vengono fatti da quel paese per infrastrutture. Ebbene, oggi Mario Monti ha detto attenzione, non è solo l'Europa il guardiano del rigore. I fondi che utilizzeremo per il Sud arrivano dall'Europa e questo va dato atto all'Unione Europea. Il rigore serve per restituire dignità all'Italia e il rigore non è un atto di cedimento verso pressioni esterne, ma è uno scatto di orgoglio che abbiamo chiesto al Paese. Il rigore che abbiamo chiesto al Paese, nella consapevolezza dei sacrifici che avrebbe comportato, non è stato allora un cedimento a logiche e politiche decise da altri in altri luoghi, ma esattamente l'opposto, cioè l'invito a condividere uno scatto di orgoglio, di assunzione di responsabilità in Italia da parte degli italiani per un futuro migliore. Tutto vero, però ricorda molto bene il premier Mario Monti che poco prima che cadesse il governo Berlusconi fu fatto traperare il contenuto di una lettera della Banca Centrale Europea che in sostanza, se mi permettete il termine, commissariava le politiche economiche italiane chiedendo innalzamento dell'età pensionabile, lotta all'evasione, tutto quello che poi abbiamo visto nella prima fase del governo italiano. Quindi è vero che serviva il rigore a riportare orgoglio e dignità al nostro paese, però è anche vero, Presidente del Consiglio, che insomma, non è che la lettera scritta da Mario Draghi non avesse un suo peso, E Mario Monti ha confermato che dall'Unione Europea non è arrivata nessuna richiesta di nuove manovre all'Italia. Vedo molti messaggi su questi fondi stanziati al Sud. Attenzione, era l'oggetto del Consiglio dei Ministri, non è che si danno i soldi solo al Sud, però oggi c'era l'operazione di azione e coesione verso il Sud e è ovvio che si sia parlato soprattutto per dei fondi cosiddetti per la coesione territoriale che arrivano soprattutto dall'Europa. Il pacco bomba inviato alla Direzione Generale di Equitalia a Roma, ne hanno parlato già a lungo i nostri GR, diciamo una cosa in maniera molto chiara, noi raccontiamo attraverso le vostre lettere anche casi in cui vi lamentate in maniera anche pesante di Equitalia. Abbiamo detto che c'è una differenza, dovrebbe esserci una differenza tra perseguire e sanzionare l'evasione quando è un'evasione scientifica, voluta, pervicace, e invece distinguere quando l'artigiano, il commerciante, il piccolo imprenditore non riesce più a pagare le tasse perché non lo pagano i fornitori, non lo paga lo Stato, sono crollati i consumi, non rientra più negli studi di settore. Però attenzione, nulla può giustificare quello che sta avvenendo con Equitalia, il pacco bomba inviato alla direzione generale di Equitalia a Roma. A Napoli 10 poliziotti feriti negli scontri con i manifestanti davanti alla sede dell'Agenzia delle Entrate. Nel milanese 2 ispettori di Equitalia aggrediti e malmenati. Nel viterbese un imprenditore ha minacciato di uccidere gli impiegati dell'agenzia. Attenzione, cioè, gli appelli vanno rivolti al governo nazionale, che ha potere su Befera e su Equitalia, ma non ai singoli funzionari. Non prendetevela con chi è un esecutore materiale, non ha nessun senso e ti porta automaticamente dalla parte del torto. Tant'è che i vertici di Equitalia esprimono profonda vicinanza alle famiglie coinvolte e, a mio avviso, giustamente dicono: è inaccettabile continuare a scaricare irresponsabilmente su Equitalia la colpa di gesti estremi e di una situazione drammatica. Nel frattempo un paio di notizie carine prima di iniziare con Antonio Calabrò e Nani Beccalli Falco. Le abbiamo sulla crisi vissuta da altri, ce n'è una che è fantastica. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. È fantastica perché vi ricorderete che la settimana scorsa il governo, con un'operazione anche da alcuni giudicata positiva, ha detto: beh, scriveteci dove risparmiare i soldi, mandateci una mail su questo. Allora gli italiani lo hanno preso la lettera e sono arrivate 95.000 email su come indirizzare la spending review, la revisione della spesa, su dove poter risparmiare. Noi ci permettiamo di dire che fin dall'inizio che era un numero di mail ingestibile, e infatti così è stato. Per fronteggiare il flusso di segnalazioni, dare rapida lettura a tutti i messaggi pervenuti e archiviati, è stato costituito un gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio stampa e del portavoce di Palazzo Chigi. 10 funzionari che ne fanno parte. Allora, a noi risulta che siano stati assunti, spero proprio di no, perché sarebbe assurdo assumere qualcuno per controllare dei mail su come si riduce la spesa pubblica. Ci sono tanti funzionari in giro. I 10 funzionari che ne fanno parte hanno esaminato e catalogato il 20% del totale delle segnalazioni. E allora, ha una nuova funzione, come un romanzo kafkiano, che dovrebbe andare a guardare come tagliare i costi, per questo rappresenta un costo successivo. L'applauso nostro e spero anche della sala presente, del pubblico presente a Torino. Complimenti. Questa crisi, ma cos'è questa crisi? E poi punta Perotti, ieri non ce ne siamo occupati, ma insomma l'Italia dovrà risarcire 49 milioni di euro alle imprese che hanno costruito quell'obbrobrio osceno, inguardabile, che rovinava la costa della città di Bari, che si chiama Punta Perotti, il cui abbattimento festeggiamo anche in radio con una lunga diretta, perché era veramente un simbolo dell'Italia peggiore. Beh, insomma, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, complimenti, ha stabilito che lo Stato italiano dovrà versare 49 milioni di euro alle 3 società Sudfondi, Mabar e IEMA come danni materiali per la confisca dei terreni di loro proprietà. È la cifra più alta mai chiesta a uno Stato come risarcimento per una violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo. Il record precedente lo deteneva la Grecia per una vicenda del 1994. Complimenti anche alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Insomma, vabbè. Meglio non commentare. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora parliamo di come l'Italia può riscattarsi con l'orgoglio industriale e anche però di come la Germania possa nel frattempo mettere i bastoni tra le ruote. Perché lo dico? Perché insomma Oggi è arrivata la prima missione. Il vice governatore della banca centrale svedese, Per Jansson, ha detto: beh, tra noi banchieri centrali abbiamo discusso l'ipotesi che la Grecia esca dall'euro. Wolfgang Schäuble, appunto ministro delle finanze tedesco, ha detto: attenzione, noi vogliamo che la Grecia resti, ma se la Grecia non fa il suo dovere, l'Europa va avanti così, non andrà certo a fondo così facilmente. Poi una piccola correzione: beh, insomma, l'obiettivo di tenere l'Atene nell'euro non cambia. Secondo alcune simulazioni, l'uscita dell'Atene dall'euro potrebbe comportare per la Grecia una galoppata dell'inflazione, cioè il ritorno della dracma porterebbe un'inflazione al 40-50% in Grecia e un meno 20% del PIL, il debito schizzerebbe al 200%. E UBS, l'Unione delle Banche Svizzere, stima che l'addio alla moneta unica costerebbe a ogni greco fino a 11.000 euro nel primo anno e 3-4.000 euro negli anni successivi. Minori le conseguenze per altri paesi. Invece le stime diffuse dell'Unione Europea vedono appunto un 2012 in cui l'area euro perderà lo 0,12%, un più 1% nel 2013, poca cosa. La Spagna sarà in recessione anche nel 2013. L'Italia quest'anno farà meno 1,4% e più 0,4% l'anno prossimo. Poi ascolteremo anche Olly Rehn su questo. Anzi, ascoltiamolo subito così poi lo faccio commentare. No, non abbiamo il file. Perfetto. Allora, Antonio Calabrò, mi tuffo a palla sul vostro libro, che è appunto il riscatto, prospettive per una nuova industrializzazione, legandolo con la tua capacità giornalistica a quanto abbiamo appena raccontato. Questo riscatto ce lo dobbiamo creare da soli, mi sembra, finché la Germania non cambi posizione. Ma credo di no. Nanni Beccari Falco e io abbiamo scritto questo libro per dire sostanzialmente due cose. La prima: l'Italia è un paese con una fortissima capacità industriale, siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa, anche se talvolta non ce ne rendiamo conto. Insomma, c'è una potenza economica italiana fondata su imprese che sanno competere, innovano, stanno sui mercati internazionali e contribuiscono in modo determinante alla non eccessiva caduta del prodotto interno lordo e contribuiranno alla ripresa. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento: abbiamo voluto insistere sulla necessità che questo paese faccia tutte le riforme necessarie, e alcune sono riforme a costo zero, per attrarre capitali internazionali. E attrarre capitali internazionali vuol dire attrarre intelligenze, competenze, risorse, cultura, tecnologie, e dunque dare una mano consistente ad avere più posti di lavoro, più ricchezza, più disponibilità. Che tipo di riforme? Burocrazia, fisco, infrastrutture, ricerca, mercato del lavoro. Noi siamo l'ultimo paese europeo per attrarre investimenti internazionali e siamo, bizzarra coincidenza Sebastiano, il paese che nell'Unione Europea cresce di meno. Ci sarà un nesso fra le due cose. Abbiamo lavorato con lo sguardo di un grande manager internazionale e di un giornalista diventato uomo impresa per capire esattamente come stanno le cose e cosa bisogna fare. Antonio, poi adesso arrivo chiaramente a Beccali Falco, però tu avete fatto bene a ricordare che abbiamo delle qualità, delle forze, la sapienza manifatturiera, c'è un tessuto culturale che andrebbe valorizzato. Io spero veramente che questi 330 milioni non finiscano poi in vengono gestiti, diciamo, dagli assessori per comprare consenso e poi vediamo Pompei crollare a pezzi, e poco investimento nell'innovazione. Noi spesso diciamo, critichiamo o lamentiamo l'assenza dell'Europa, ma è anche l'assenza del governo. Però possiamo fare, visto che tu le conosci da vicino, anche un rilievo alle imprese. Cioè, se non possiamo in questo momento aspettare che la Germania si convinca che se non si parte con un piano anche di crescita l'Europa va a fondo. Metti che la Germania ci impieghi un anno perché ha le elezioni a marzo, noi che facciamo fino allora? Quindi un invito tu lo puoi rivolgere anche alle imprese, soprattutto quando piccole e piccolissime. Una delle tesi che sosteniamo nel libro, che non è originale ma vale la pena insistere, è questa: ci sono state imprese che anche negli anni della crisi si sono ristrutturate, hanno investito, sono andate all'estero, sono cresciute di dimensione, e imprese che sono invece rimaste legate al mercato interno e una stessa struttura proprietaria piccola, compressa, familista, passami il termine, e nel familismo ci metto tutti gli atteggiamenti negativi del capitalismo familiare che invece ne ha di interessanti. Tocca alle imprese continuare a fare bene il loro mestiere, insistendo molto di più su ricerca e innovazione. Nel libro puntiamo su un elemento dicendo: finché le imprese restano piccole, soldi per investire in ricerca e innovazione ne avranno pochi. Devono stare insieme, o crescere per dimensione, acquistando altre imprese, o consorziarsi, lavorare sui distretti, sulle filiere, o comunque collegarsi a grandi gruppi internazionali. Perché vediamo con favore gli investimenti esteri anche quando comprano imprese italiane? Perché vuol dire che arrivano risorse per poter investire in innovazione e tecnologie. Questo è il contributo che riteniamo le imprese debbano dare, quelle brave già lo stanno dando. Allora, dottor Nanni Beccali Falco, lei è anche, come ricordavo, amministratore delegato di General Electric Germania, no? General Electric Europe e North Asia. Visto che ha a che fare tutti i giorni con i suoi manager tedeschi, mi dia un'informazione da dentro. Cos'è che spaventa così tanti tedeschi? Perché insomma si stanno infilando, a mio avviso, e non solo a mio avviso, in un cul-de-sac, in un vicolo cieco. Cioè, continuare anche oggi il balletto, l'Europa va avanti senza Grecia, poi correggere, no, comunque noi vogliamo che la Grecia resti nell'euro. Mi ricordo obiettivamente quella tragicommedia di marzo 2010, quando avessimo salvato la Grecia allora, facendola poi anche mettere in riga, ma salvata, costava 130 miliardi. Nel frattempo le borse hanno perso 1.600 miliardi di capitalizzazione. Come dire, che non è che dalla Germania arrivi sempre questo esempio di lungimiranza. Cos'è che spaventa i tedeschi? Io non credo ci sia molto che spaventi i tedeschi in questo momento, sinceramente. I tedeschi hanno una certa coerenza di comportamento che dobbiamo rispettare. I tedeschi sono quelli che 10 anni fa erano in una crisi abbastanza profonda, una crisi particolarmente dovuta al costo del lavoro, una crisi che hanno affrontato di petto e che nel giro di 10 anni sono riusciti a correggere e sono riusciti a portare, tra l'aumento di produttività e avendo mantenuto costante il costo del lavoro, sono riusciti a mantenere il costo di produzione in Germania su dei livelli che oggi, difficile a credersi, però sono competitivi con tutto il resto dell'Europa. Quindi questi tedeschi qui, a questo punto, loro sono riusciti a correggersi da soli. E che cosa pretendono praticamente? È che la gente rispetti certe regole per poter essere poi aiutata. Noi siamo qui sempre che stiamo parlando di ci vuole l'aiuto dei tedeschi, eccetera, eccetera. Secondo me il principio fondamentale è quello che dobbiamo aiutare noi stessi per primi, dobbiamo riguadagnare la fiducia dei mercati, punto numero due, dobbiamo cercare di riguadagnare la fiducia come nazione industriale e poi a quel punto, facendo parte dell'Europa, possiamo veramente lavorare su un coordinamento finanziario che possa unirci alla Germania. La Westerwelle, Schäuble, eccetera, eccetera, a volte cambiano anche opinione, non tanto perché cambiano opinione, ma perché sono costretti a cambiare opinione, perché come vengono fuori con una buttata che dice la Grecia se ne può andare per conto suo, a noi praticamente non interessa, chiaramente le borse reagiscono, chiaramente le forze politiche reagiscono, per cui a un certo punto devono fare una correzione. Ha ragione lei, se si fosse intervenuti probabilmente un anno e mezzo fa con la Grecia ci sarebbe costato molto meno. D'altra parte, un anno e mezzo fa la Grecia non era al punto di essere d'accordo su una forma di ristrutturazione che li avrebbe portati a farci vedere che potevano tirarsi su da soli per conto loro. In questo momento la Grecia sinceramente si stanno sparando da soli, cioè a un certo punto quando sì, saltano fuori dicendo che non rispettano le regole che erano state su cui si erano messi d'accordo solamente poche settimane fa, e allora chiaramente qui ci troviamo in un momento difficile, per cui se vogliono affogare c'è poco da fare. Sì, probabilmente si stanno sparando da soli, la pistola però gliel'abbiamo fornita noi, perché è vero che i tedeschi vogliono che anche noi si applichi il rigore e hanno ragione che loro hanno messo, ma la coerenza quando è eccessiva diventa stolidità, non è più coerenza, e la punizione quando è eccessiva diventa umiliazione. A mio avviso nel caso greco si è arrivati a questo, anche perché la Grecia non è che i greci non sono greci da 2 anni, la Germania lo sapeva benissimo come l'ha fatto quel paese quando le banche tedesche prestavano e investivano 35 miliardi di euro in Grecia, che è una cifra enorme visto il paese, oppure vendevano i sommergibili o venivano pagate tangenti da Siemens. Cioè, voglio dire, sembra che improvvisamente i greci siano greci adesso, prima invece erano tutti alti e biondi. E vorrei capire se lei una critica alla Germania la riesce a muovere, perché a mio avviso se non si supera quell'ostacolo noi possiamo fare tutte le politiche del rigore possibili. Nel 2013 è stimato un più 0,4, ci si mette un secondo a fare un'altra recessione nel 2013 se le cose non ripartono? di nuovo continuiamo a insistere sempre su questo concetto qui. Il punto è che aiutati che il Celta aiuta, cioè ci troviamo sempre nella situazione in cui chiediamo l'aiuto, si pretende che ci sia aiuto da tante altre parti, da tante altre fonti, quando fondamentalmente siamo noi stessi che dobbiamo aiutarci per primi. Bisogna ristabilire fiducia nei mercati. Se c'è una cosa, guardi, io ho lasciato l'Italia 37 anni fa, per cui ho girato il mondo. E come l'ha trovata adesso? È sempre un paese magnifico, è sempre un paese in cui fa piacere, io ancora affetti e no, amici, per le vacanze va benissimo, io parlavo come paese. Guardi che come General Electric noi abbiamo uno dei più grossi investimenti che ci siano, che si chiama GO Oil & Gas, che lei forse si ricorda sotto il nome di Nuova Opinione, che è una società che abbiamo acquistato nel 1994 pagandola parecchio, diciamo, per l'epoca. È una società che a quell'epoca fatturava 900 milioni di dollari, di cui la maggior parte fornivano la Gazprom in Russia. Oggi è una società mondiale di 12 miliardi di dollari, in cui la Russia praticamente sì è un componente, ma non ha più la preponderanza che aveva allora, ed è appunto una società che è basata su tecnologia italiana sviluppata dagli italiani, con gli italiani che vanno all'estero a venderla e a svilupparla. Quindi noi in Italia abbiamo la possibilità, basta creare i sistemi e i processi per poter mettere in atto questo talento che noi italiani abbiamo. Senta, in conclusione mi dica un motivo per cui lei potrebbe convincere i suoi colleghi americani o asiatici a investire in Italia, e un motivo per cui invece gli direbbe no, lascia stare, ci sono altri paesi più interessanti in questo momento. Il motivo per cui si può investire in Italia è la gente, è il talento, sono le persone. Guardi un po' cosa succede per gli italiani che vanno a lavorare all'estero. Sono tutti italiani che in un modo o nell'altro riescono ad avere successo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando si prende il carattere, la cultura, la personalità dell'italiano e lo si trapianta in un sistema che ha dei processi precisi, ben definiti, si crea una combinazione che è perfetta. Purtroppo cosa abbiamo in Italia? Abbiamo dei grandi talenti che sprecano un mucchio di energia per cercare di vincere dei processi e dei sistemi che sono invece piuttosto farraginosi, piuttosto complicati e che rappresentano più ostacoli di quanto non rappresentino facilitazioni. Guardi, io non è che sia un grande intelligente o così questo genere, se lei guarda il mio score nella scuola non era che fossi uno dei migliori, però sono riuscito ad avere un certo successo in una società come la General Electric perché appunto sono riuscito a combinare quel po' di talento italiano che ho con una struttura che funziona, che ha dei processi ben organizzati, e quindi mi ha aiutato. E il motivo per non investire? Senti che bel applauso, bravo. Ringrazio il pubblico che mi sta applaudendo. Non l'ho nemmeno chiamato l'applauso, è un pubblico autonomo, diciamo, non eterodiretto, bene. Riconoscono il torinese, diciamo. Allora è un pubblico fazioso. Senta, ma... mi dici il motivo per non investire? Il motivo per non investire sarebbe sempre lo stesso, che siamo italiani. Veramente guadagnare, no, dobbiamo guadagnare la fiducia come sistema. E era un po', non era un po', era abbastanza triste essere a Bruxelles, per esempio, e sentire le opinioni delle varie istituzioni, diciamo così, per quanto riguardava il governo italiano solamente pochi mesi fa. E devo dire che il grande merito di Mario Monti è stato quello di ristabilire una certa forma di credibilità a livello internazionale. Adesso una persona non può fare tutto, però la sua, diciamo, la fiducia che lui si era guadagnato come commissario europeo ci vale e, diciamo, ha un valore aggiunto per quanto riguarda questo è indubbio che il rating si basi anche sui rapporti interpersonali. In una battuta, perché devo veramente chiudere, abbiamo la classe politica peggiore d'Europa, lei che spesso ha a che fare con gli amministratori politici anche su base locale? Ma sa, di politici ce n'è un po' di tutti i tipi. Questo è CDU, è un democristiano bavarese, no, mi dica la verità. No, ci sono dei buoni e ci sono dei cattivi. Onestamente, io vivendo, appunto, essendo in Germania, ne ho incontrati di quelli che è meglio non incontrare, e ne ho incontrati tanti che sono grandissimi. Io sono un grande ammiratore di Angela Merkel, secondo me è uno dei leader migliori che ci siano in questo momento. E ho incontrato anche dei politici italiani che sono delle personalità notevoli. Non faccio nomi qui per il semplice motivo che non posso fare pubblicità, non credo di poter fare pubblicità, diciamo così, ma. No, ma guardi, è pubblicità progresso, se me ne dice uno. No, parliamo per esempio di Mario Monti in questo momento. Comoda. Che infatti non è un politico, è un tecnico. No, è bravissimo. Adesso, a parte gli scherzi, lei è molto bravo perché riesce a... Sembra quasi un politico, Beccali Falco, eh? Riesce a muoversi molto bene, però è importante quanto lei ricordava e quanto ricordava anche Antonio Calabrò sull'orgoglio e sugli elementi di forza di questo paese. Ogni tanto ricordatelo con forza, perché poi spesso noi dobbiamo raccontare invece gli elementi di sfiga di questo paese oppure gli elementi negativi tout court. Il libro si chiama Il riscatto, prospettive per una nuova industrializzazione, edizione Bocconi. Grazie a Antonio Calabrò e a Nanni Beccali Falco, se gli fate un applauso a questo punto comandato, mi fate anche un favore. Grazie a tutti e due. Grazie a voi. Grazie. E usiamo questo ponte tra gli studi di Milano e i nostri studi di Torino, dove ci ha raggiunto, in realtà era sul palco anche prima, noi lo sappiamo anche se non la vediamo, la nostra Alessandra Tedesco. Alessandra, buonasera. Ciao Sebastiano, qui il tuo pubblico ti aspettava con ansia, poi hanno visto me e insomma no, le donne fate sono un applauso finite. Alessandra Tedesco, per favore, che è anche una donna, mamma no, mia. Io ho cercato di far notare che abbiamo tutte e due gli occhi azzurri, però insomma il pubblico prego. Era soprattutto femminile e niente. Alessandra, vorrei mantenere un minimo di serietà in questo programma e allora... perché dobbiamo parlare di cose purtroppo serie. Esatto, adesso. Esatto, perché tu sei la nostra inviata alla Salone del Libro di Torino, dove oggi si è entrati nel vivo soprattutto per quello che riguarda i dati sull'editoria. Eh sì, perché già ieri ricordavamo con il direttore editoriale Ferrari del Salone un dato paradossalmente in controtendenza, cioè è aumentata la lettura degli acquisti di libri negli ultimi 12 mesi, infatti più 3,5%, le persone che hanno letto almeno un libro non scolastico negli ultimi 12 mesi sono il 47% degli italiani. In realtà questo dato però, Alessandra, come tu hai scoperto oggi, racchiude solo una parziale verità. Allora, Ernesto Ferraro, che è il direttore editoriale del Salone del Libro di Torino, si riferiva ovviamente alle copie vendute e così via, però in questo campo bisogna fare un po' di ordine, perché i dati, ahimè, non sono per niente positivi. O meglio, Ferraro si riferiva al numero di lettori. Il numero di lettori può essere anche aumentato, ma il fatturato e il numero di copie vendute stanno andando maluccio. Basti pensare che nel 2011 al mercato a valore ha perso il 3,5% ed è la prima volta che gli editori vedevano un segno meno, insomma sono stati abbastanza scioccati da questa cosa. E i primi tre mesi del 2012, dati diffusi questa mattina al Salone del Libro di Torino, dati Nielsen, ci dicono che i primi tre mesi del 2012 segnano un -11,8%, quindi un -12% per quanto riguarda a valore. Poi per quanto riguarda il numero di copie vendute siamo sempre lì, insomma siamo a -11%, quindi le cose non stanno andando affatto bene. E la cosa preoccupante è che a dicembre, quando i consumi generali sono diminuiti di circa il 4,8%, i libri sono crollati del 20%, ed è una cosa gravissima perché a Natale si concentrano la maggior parte delle vendite per quanto riguarda i libri, perché si sa, insomma, spesso si fa un regalo di Natale che costa poco ed è un regalo di Natale intelligente, appunto, acquistando e regalando un libro. Si costa di solito poco, non tutti i libri costano poco, però hai ragione a far notare che il fatto che il calo arrivi a Natale, un po' come arriva per... come il dato per il commercio durante i saldi, è particolarmente significativo ed è particolarmente negativo che si sia registrato un calo sotto Natale. Alessandra Tedesco, stavi dicendo che in realtà i cali ci sono, anche il mondo del libro e dell'editoria rientra purtroppo nella congiuntura della crisi. Allora, i cali ci sono e per due ragioni fondamentali. Una è dovuta alla crisi generale, la gente compra meno e compra anche ovviamente meno libri. L'altra è una ragione di contenuti. Nel 2011 non c'è stato un vero best seller, quindi un libro che abbia trainato, non c'è stato un Harry Potter, un Gomorra, La solitudine dei numeri primi, quelli che in gergo si chiamano i mega seller, che sono in grado di trainare il mercato e portare poi assegni più. Questo è un po' l'analisi degli editori che è stata fatta anche questa mattina al Salone del Libro di Torino. Tra l'altro tu prima, a proposito del Natale, citavi i prezzi, no? Dicevi, non è detto che 15 euro siano pochi. Allora io vorrei fare un piccolo giochino col pubblico che è qui al Salone del Libro. Secondo voi 15 euro per un libro sono pochi, troppi o prezzo giusto? Per chi sono pochi? Alzate le mani. Nessuno. Per chi è un prezzo equo? 15 euro? Abbastanza. Per chi è troppo? Nessuno. Allora, secondo il pubblico, quindi 15 euro per un libro sono un prezzo corretto, che è poi quello che dicono gli editori. Però negli ultimi anni si sono affermate un po' di politiche di low cost. Alcune case editrici hanno lanciato, per esempio, la Newton & Compton, dei libri a 9,90 negli ultimi due anni, o non so, la Voland, che ha messo il libro di Amelino Tomba a 9 euro, che appunto è una novità, o piccole case editrici che si sono unificate insieme, come per esempio la Neri Pozza, la Nottetempo, la Minimum Fax, per lanciare una collana economica. Su questo discorso del prezzo, diciamo che gli editori sono abbastanza divisi, perché c'è chi fa appunto una politica low cost e toglie pubblico agli altri, e chi, come grandi editori, che non vuole far scendere il prezzo in qualche modo, perché dice che si svilisce il prodotto libro, perché per fare un libro c'è tutto un lavoro complicato. Io voglio solo ricordare che un libro che costa 15 euro ti tiene compagnia per almeno una settimana. Quando andiamo al cinema ci stiamo. Ma chi ti ha dato le royalties? Ma ti ha dato le royalties oggi? No, sto scherzando. Allora, Sebastiano, considera una cosa: che gli italiani spendono solo il 6% annuale del loro budget per spese culturali e ricreative. No, ma ascolta, siamo allora, figurati, con me sfondi una porta aperta, però una sola nota, perché tu, vorrei fare sentire anche la tua intervista, abbiamo ancora qualche minuto che rimane. Una sola nota: 15 euro è sicuramente un prezzo accettabile, voglio dire, è una pizza, una coca per un libro che, tu hai ragione, ha una funzione che va ben oltre. Non tutti i libri costano 15 euro, avessimo fatto la domanda a 25, adesso io non sono lì, sennò potevamo alzare. Beh, io ho fatto un prezzo meglio. No, certo. Chi hai sentito su questo? Allora, stamattina abbiamo intervistato Marco Polillo, che è il presidente dell'AIE, l'Associazione Italiana Editori, quindi li comprende un po' tutti. L'abbiamo sentito sia sul problema della crisi che anche sul problema dell'ebook, perché non dimentichiamo che quest'anno il Salone del Libro di Torino è dedicato alla primavera digitale. Sentiamo allora Polillo. Ma i primi tre mesi del 2012 non sono andati bene, ma lo sapevamo che c'era una caduta del mercato abbastanza significativa. Abbiamo però già in anteprima un dato che riguarda il mese di aprile, quindi il quarto, dove c'è un ritorno a dei valori un po' più normali. E d'altra parte però abbiamo visto questa mattina che i dati globali sono dati molto difficili, e di conseguenza, e forse in questi dati difficili noi ce la caviamo ancora tra i migliori, per cui non è così brutto come lo si dipinge. Per affrontare la crisi, alcune case editrici, soprattutto medio-piccole, stanno lanciando una politica low cost, libri a 9 o 10 euro. Lei come la pensa? Ma io non sono mai stato convinto dei frutti positivi di una politica low cost, perché ci può essere il grande exploit dovuto al caso particolare. Improvvisamente arriva sul mercato un editore o comunque un gruppo di libri a un prezzo particolarmente più basso rispetto ai titoli concorrenti, sia come caratteristiche grafiche sia come caratteristiche editoriali, e di conseguenza c'è certamente un'attenzione molto marcata su quei prodotti. Di nuovo un saluto a Torino, agli studi di Radio 24, dove oggi, in maniera del tutto imprevista, Focus Economia non può trasmettere, o meglio, trasmette metà del programma da lì. Grazie a tutti quanti ci stanno seguendo dalle sedute dei nostri studi al padiglione 2 J166. Questo è il modo, se volete raggiungere gli studi e lo spazio di Radio 24 al Salone del Libro di Torino. La borsa adesso e poi il colloquio con il sociologo Ivo Diamanti. La borsa la faccio io, perché appunto con i collegamenti con Torino oggi andiamo un po' più snelli. Il rialzo è stato limitato a uno 0,29% a Milano, invariata a Parigi, più 0,95% Francoforte e più 0,60% Londra. Segnaliamo intanto la cosiddetta galassia Ligresti, che abbiamo definito più che altro un buco nero più che una galassia, ma comunque oggi molto bene i titoli, più 19,89% Fondiere SAI e più 12,70% anche Fondiari Assai sulle risparmio. Ieri ha comunicato il gruppo il ritorno all'utile nel primo trimestre, ma soprattutto ci sarebbe un accordo sul concambio da applicare a Unipol, nell'operazione che vedrà Unipol acquisire Fondiaria Sai. Fra i titoli di maggiore capitalizzazione, molto bene A2A, più 5,90% dopo la chiusura dell'operazione Edison, ma anche e soprattutto sulle buone prospettive per il 2012. Gli impianti a gas di A2A sono tornati a generare utile e anche quelli idroelettrici. Poi Pirelli, oggi in recupero dopo la giornata negativa di ieri. La trimestrale era piaciuta poco, soprattutto le prospettive di questa trimestrale erano piaciute poco al mercato. Oggi più 4,34%, Pirelli ieri ha rivisto le stime a ribasso sui ricavi, poi forse hanno visto un po' meglio i dati oggi gli analisti, si sono accorti che comunque i risultati sono buoni. Ancora molto bene Mediolanum, più 2,30%, si attende un 2012 da record per Mediolanum. Bene anche il gruppo Fiat, più 4,11% Fiat, più 2,60% Fiat Industrial, ossia camion e auto. Diasorin più 3,25%, Autogrill più 2,30% ed Eni più 1,93%. Tra chi ha perso, beh, cito anche chi ha guadagnato come Enel Green Power più 1,90%, Azimut più 1,60% e Luxottica più 1,5%. Tra chi ha perso, alcune banche, anche se non in maniera così significativa. Tra l'altro Unicredit perde l'1%, UbiBank perde lo 0,56%, la Pop Milano è invariata e devo dire poco altro si è mosso oggi sul mercato, ma ha perso di nuovo il Monte dei Paschi ha perso l'1,20% e Mediobanca l'1,22%, Intesa San Paolo l'1,5%. Dicevo Mediaset meno 2,83%. E beh, qui c'è l'intervista di oggi su Sole 24 Ore. Il direttore finanziario ha detto di Mediaset, ha detto che si attendono un calo della pubblicità per fine anno. Male anche Tenaris, meno 1%, e qui è un calo per motivi indiretti. A Parigi il titolo simile perché è un concorrente, Value Rec, ha avuto risultati deboli e questo penalizza anche Tenaris. Adesso però vorrei affrontare il tema dei disperati mai, ossia l'iniziativa di Radio 24, alla luce però anche di quello che sta capitando con Equitalia. Il nostro giudizio è molto molto netto. Piacere, Luigi delle bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore. Sono un eroe, perché combatto per la pensione. Sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere. Sono un eroe, straordinario tutte le sere. Sono un eroe, e te lo faccio vedere. Ti mostrerò cosa so fare con il mio superpotere. Sono un eroe. Allora, intanto una precisazione l'abbiamo fatta anche all'inizio del programma. È inaccettabile che si picchino, vengano assaliti i dipendenti di Equitalia, 10 poliziotti feriti oggi a Napoli nel corso di scontri con i manifestanti. L'abbiamo detto più volte, qualcosa non funziona in Equitalia ed è vero, abbiamo spiegato la differenza tra chi combatte l'evasione, l'evasore, quello che evade scientificamente, quello che evade perché vuole evadere, e ci dovrebbe essere un po' più di comprensione per chi ha un problema congiunturale, i fornitori non pagano, lo Stato non paga, le banche non rinnovano le linee di credito. Lì non si può trattare l'artigiano che non rientra nei studi di settore come l'evasore con la barca e i soldi all'estero. Detto questo, però, attenzione, non ha nessun senso né alcuna giustificazione prendersela con i funzionari di Equitalia, che sono solo funzionari. E c'è un pacco bomba inviato oggi alla direzione generale di Equitalia con la sigla, con la stella a 5 punte, 4 vecchi volantini siglati BR, affissi a Legnano. A Napoli 10 poliziotti feriti, come dicevamo. Il pacco bomba inviato Equitalia a Roma. Nel milanese 2 ispettori di Equitalia aggrediti e malmenati. Nel viterbese un imprenditore ha minacciato di uccidere gli impiegati dell'agenzia. Tutto questo non ha senso, anche perché sono impiegati, ve la prendete con i più deboli. Ha ragione Equitalia a dire che è inaccettabile che vengano scaricate su di loro le responsabilità. Equitalia agisce sulla base di quello che dice di fare il governo, quindi prendetevela con il governo, fate iniziative nei confronti del governo, ma non nei confronti dei funzionari di Equitalia. Anche di questo, in maniera un po' più allargata, vorrei parlare, e lo ringrazio per averci raggiunto in collegamento, con il sociologo Ivo Diamanti. Buonasera. Buonasera. Gli fate un applauso Torino, visto che l'ho chiesto a tutti gli altri ospiti, lo chiederei anche a Ivo Diamanti, che ha scritto un libro, è sociologo, docente all'Università di Urbino, editorialista della Repubblica, politologo, ha fatto bene a correggermi, Gramsci, Manzoni e mia suocera, quando gli esperti sbagliano le previsioni politiche. Prima domanda, poi arriviamo al tema invece di come questo paese non riesce a leggere la disperazione di alcuni soggetti, di alcune categorie, anche nell'immaginario del piccolo imprenditore, sempre visto come un evasore, mai rappresentato in maniera positiva in un film, e sì, che hanno contribuito a creare buona parte di questa ricchezza. Però, Diamanti, sbagliano più le previsioni i politologi, gli esperti, voi che fate ricerca, o gli economisti? Ma una bella gara, è una bella domanda. Beh, sugli economisti c'è una letteratura ampia, c'è un premio Nobel, Harrow, ci ha costruito un testo interessante ricostruendo appunto a sua volta decenni di previsioni sbagliate. Non per questo gli economisti non costituiscono una categoria ascoltata, e per quel che mi riguarda devo osservare che tutte le riserve che si possono porre correttamente e in modo giustificato sulle previsioni, ma non solo sulle previsioni, proprio anche attraverso i sondaggi in termini di orientamento di voto ed elettorale, tutti i dubbi, per quanto fondati, su quest'area, su questi materiali, su questi soggetti appunto che fanno previsioni o stime elettorali, tutto ciò sembra non abbia minimamente scalfito la presenza di chi fa sondaggi, di chi fa previsioni e quant'altro. Cioè non c'è giornale, non c'è trasmissione che non abbia il suo sondaggista di fiducia e chi fa la previsione, e come se partecipasse a un clima, a un contesto nel quale tutto fa spettacolo, comprese le previsioni, che saranno sbagliate, ma lo saprai soltanto dopo. Nel momento in cui lo fai, semmai contribuiscono a un altro tipo di distorsione. Una previsione fatta prima, o una stima elettorale o politica fatta prima, orienta l'opinione e orienta le scelte degli stessi elettori, dei cittadini. Per cui è interessante questo. Oggi ho fatto fare delle tesi a mie studentesse, anche di recente. Dico che sono studentesse non perché sono studentesse, ma perché tesi sono studentesse. Sull'andamento e dei sondaggi sui giornali dal 2000 ad oggi, e c'è stato un picco clamoroso nella seconda metà degli anni 2000. Oggi sono calate, ma soltanto perché non ci sono più soldi per pagarli, mettiamola così, a livello pubblico. Però i sondaggi sono diventati un elemento di spettacolo interessante. Però devo dire una cosa, Diamanti, poi parliamo di come questo paese non riesca a rappresentare la struttura portante della sua ricchezza, ossia il mondo dei piccoli imprenditori artigiani. Ma in Francia queste previsioni non è che abbiano sbagliato così tanto. È più facile forse lì perché hai ballottaggi, due candidati? Allora, in Francia ci sono almeno due ragioni che rendono gli istituti di sondaggio, come dire, più attenti e più attendibili. Primo luogo, hanno una storia molto lunga, e sono consolidati. Ci sono 4-5 istituti di sondaggi che sono assolutamente attendibili e sperimentati, però in passato hanno sbagliato abbastanza anche loro. Due, è diverso ragionare sul primo turno, ad esempio, quando c'è un'offerta politica frammentata, e sul secondo turno è più facile, ai due candidati. Oltretutto in Francia comunque per votare bisogna iscriversi, e quindi i sondaggi funzionano meglio, perché chiaro, chi risponde è già più disponibile e somiglia di più a chi comunque andrà a votare. Buongiorno, sono un piccolo imprenditore di origine straniera, una piccola ditta di trasporti per conto terzi con 3 dipendenti regolarmente assunti, lavoriamo a Torino e abbiamo grossi contratti con le società di trasporti. Il nostro lavoro ha subito dal 2008 un incremento del 30%, il nostro orario di lavoro è dalle 5 di mattina alle 19 senza nessuna pausa. Due anni fa ho dovuto iniziare a vendere, prima un camion, poi un altro per pagare le tasse. Un anno fa ho fatto un prestito personale sempre per pagare le tasse. Quest'anno non ho più la possibilità di pagare le tasse. I miei dipendenti faticano a portarsi a casa uno stipendio di 1000 euro con questo orario di lavoro ed io sono senza guadagno. Nonostante questo non riusciamo nemmeno a pagare le nostre spese. Io sono un tuttofare, per la mia fortuna lavoro tutti i giorni, qua e là. Continuo a portare il pane a casa, ma con i dipendenti come faccio? Chiudo l'attività e li licenzio? Uno ha due figli piccoli, l'altro ha 56 anni e la moglie disabile. Buongiorno, mi chiamo Gianluca. Nel 2004 ho avviato un'attività di informatica, la mia passione. Tutto quello che ho fatto è stato sempre improntato all'onestà e alla trasparenza, riducendo al minimo i costi di gestione per sopravvivere, sacrificando il mio tempo libero, spesso anche il mio sonno, allo scopo di coltivare il sogno di una società sana e onesta. Pochi giorni fa mi è stato recapitato un accertamento dell'Agenzia delle Entrate, la quale sostiene che il mio fatturato del 2008, secondo gli studi di settore, debba essere di 5 volte superiore a quello effettivo. Di conseguenza mi vengono richiesti il pagamento di IRAP, IRES e IVA per l'importo presunto, a cui vanno sommati gli interessi di 3 anni ed una multa di un terzo dell'importo totale. La mia piccola società non dispone, non ha mai disposto della somma simile. Il 2 maggio dovrò andare a rendere conto all'Agenzia delle Entrate, non sappiamo come sia andata a finire. Ho tanta paura che il mio sogno debba infrangersi proprio ora che sembra consolidarsi. Buongiorno, ho passato 2 ore a leggere sul vostro sito gli sfoghi di imprenditori piccoli e medi che stanno attraversando uno dei momenti più bui della loro vita. Qui non si tratta solo di lavoro, ma anche di chi come questa crisi, ma anche di come questa crisi stia uccidendo ogni speranza e ogni tentativo di cercare di rimettersi in piedi. Sono imprenditore da quasi 10 anni, dopo averne lavorati altrettanti 10 in questa piccola, minuscola azienda. Non ho mai fatto grandi numeri, ma nell'ultimo anno e mezzo le cose sono decisamente peggiorate. Dopo quasi 20 anni mi sono ritrovata ad usufruire del fido bancario. Non sono sotto di molto, ma la banca non concede prestiti e, se non hai le garanzie di rito, anticipo, fatture, ricevute bancarie, non paga nemmeno 200 euro più del dovuto. Quello che mi fa ridere, o forse rido solo per disperazione, è che ogni volta che entro noto i bei manifesti che pubblicizzano i loro finanziamenti alle imprese, che a tutti gli effetti però non concedono più per svariati motivi. Ho chiesto un prestito anche a titolo personale, premetto che non ho debiti a mio nome, la casa è interamente pagata, ma nulla di fatto, nemmeno in quel modo. E allora si inizia a tagliare i costi, togli un'assicurazione, salti il tuo stipendio, 1, 2, 3 mesi, ma prima o poi qualcosa devi prendere se vuoi mangiare. Potrei chiudere per fallimento, vero, ma non ci riesco. Non riesco a fregarmene dei miei fornitori, dei miei impegni presi con loro, della parola spesa con loro. Non posso sopportare di perdere credibilità con persone che, oltre ad essere fornitori, sono stati anche amici per 20 anni. E non riesco neanche a lasciare a casa il mio unico operaio, che ha 4 figli ed è monoreddito. Mi chiedo cosa sarà di noi, noi piccoli imprenditori, con l'unico desiderio di vivere una vita dignitosa, perché la cosa davvero difficile è che quando lo sconforto ti assale, ti blocca fisicamente, psicologicamente, ti toglie il sonno e la salute. Passo le ore davanti al PC immobile, senza nemmeno più piangere, consapevole che piangere non serve a nulla, ma incapace di fare qualcosa. Allora, Ivo Diamanti, lei in un articolo di 2 settimane fa già notava come l'ottimismo fosse crollato in questo paese, addirittura rispetto all'anno scorso si è dimezzato, non più del 10%. Mi aiuti a capire una cosa, perché però anche la politica, non solo le istituzioni, le associazioni, ma la politica regionale, comunale e nazionale ha una cosa grossa difficoltà a cavalcare, mi passi il termine, a dare una risposta a questo mondo? Sembra quasi che non lo conosca, sembra quasi che i 9 milioni di imprenditori di questo paese, che per il 99% sono piccoli, non li abbia mai descritti nessuno, se non per dati aggregati. Mai un libro, vero, mai un film, vero, sempre un po' la macchietta dell'evasore fiscale. Sarà per questo che se c'è una grande azienda in crisi tutti ci preoccupiamo, paginate sulla Fiat, visto che siete a Torino, e non si riesce a trovare una risposta politica? Ma guardi, mi pare un problema un po' complicato, però lei in una certa misura l'ha posto in modo condivisibile, cioè la storia collettiva della piccola e piccolissima impresa è stata vissuta così, come una storia di piccola e piccolissima impresa, non tanto di imprenditori, anche se lo specifico italiano è questo, cioè l'impresa è familiare, l'impresa è in larga parte individuale. Lei sa, io per una 10-12 anni ho lavorato con le mie ricerche nel mitico Nord-Est, ho anche diretto la Fondazione Nord-Est, che certo, si occupava esattamente di questo fenomeno. Allora scrivo sul Sole 24 Ore, peraltro. Allora, non è propriamente vero che non sia stata colta, percepita, però è stata colta e percepita soltanto come un fenomeno affluente, trainante. Io credo che oggi ci sia, dopo una decina d'anni nella quale ci si è abituati a trattarla in modo miracoloso, a cogliere esattamente questo cambio repentino di situazione, che ha come implicazione forte esattamente quello a cui stiamo assistendo. Cioè è difficile rassegnarsi non soltanto per ragioni, come dire, materiali ed economiche alla crisi, capisci, al collasso, ma anche per ragioni umane, anche per ragioni personali. C'è anche una questione di autoidentità, di autoimmagine, certo, di autodefinizione. Cioè tu sei apparso per molto tempo l'imprenditore con la I maiuscola e diventi non necessariamente l'evasore, ma quello che fallisce, e hai un problema diverso. Lei sa bene qual è la differenza tra il piccolo imprenditore e il grande imprenditore. Il grande imprenditore ha un rapporto con chi lavora molto mediato e molto indiretto, spesso non è neanche un imprenditore, è un'impresa, è una società. Ma no, il piccolo imprenditore è stato prima un lavoratore, è uno di loro, li ha lì quotidianamente, abita nello stesso paese, nello stesso comune. Diventa davvero, come dire, un problema disastroso che travolge la tua identità. Che va oltre, come diceva lei, il semplice dato economico, ma entra in quella che è la rappresentazione sociale, quell'idea che tu hai di te stesso in quella società e come pensi di venire percepito. Stavo dicendo che l'iniziativa Disperati Mai, @radio24.it, continua. Stanno arrivando anche molte richieste di non di aiuto, ma di voler dare un aiuto, fondi da destinare, stiamo cercando di organizzarle. C'è una richiesta però che abbiamo fatto in tempi non sospetti 2 mesi fa. Diamanti, resti con noi, perché con questo appello io vorrei concludere. L'appello è ai partiti politici che a luglio ricevono, se non ricordo male, 186 milioni di euro. Ai partiti che a fine luglio riceveranno quasi 170 milioni di euro di rimborsi elettorali, perché non li devolvete ad un fondo per i piccoli imprenditori in difficoltà? Aiutereste loro e i loro dipendenti, tornereste vicini ai vostri elettori. Sperem, però non si è mosso niente, anzi, dicono che ormai li hanno già spesi quei soldi. Ivo Diamanti, grazie, fate un applauso se potete, anche grazie, Ivo Diamanti, allora, grazie a tutti voi. Non è necessario. Non è obbligatorio, l'ho chiesto. Grazie a tutti voi lì presenti, mi scuso ancora per non essere arrivato, grazie al pubblico virtuale e fisico lì al Salone del Libro di Torino. Da Sebastiano Barisoni non manca che un ringraziamento, come ogni settimana, a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi. Noi ci risentiamo alle 17 di lunedì prossimo. Disperati mai. Radio 24. La passione si sente.